e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Siamo a dicembre, beh, insomma, questa è proprio la scoperta dell'acqua calda, lo sappiamo tutti bene. Temperature rigidine, anche se leggermente al di sopra dei minimi di stagione, riscaldamenti accesi, accendiamo pure le luci dell'albero e tutte le decorazioni ed ecco che tracche un attimo anche le bollette vanno su necessariamente. Tra l'altro, proprio in questi giorni è tornato ad essere particolarmente gettonato l'argomento petrolio. L'avete visto in prima pagina su tutti i giornali, le quotazioni sono in caduta libera sui mercati internazionali ai minimi da ben 7 anni a questa parte, però il costo dei carburanti, si lamentano le associazioni dei consumatori, rimane sempre molto elevato, soprattutto in Italia, a dispetto del petrolio. Noi oggi però nella prima parte di Cuore e Denari, che oggi conduco in solitaria, ci concentriamo sulla bolletta dei consumi elettrici e sulle novità che riguarderanno a partire dal 1 gennaio tutti noi consumatori, per essere precisi ben 30 milioni di utenti elettrici domestici italiani. 800 24 00 24 se volete già cominciare a prenotare i vostri interventi per intanto raccontarci se avete letto di questa novità, se ne avete capito abbastanza e soprattutto se avete avuto di recente un contenzioso, un conflitto, qualche diatriba, qualche discussione con il vostro distributore di gas ed energia e come l'avete risolta. Sappiamo bene che per esempio c'è l'annosa questione dei conguagli che mette sempre in forte polemica, in contrapposizione appunto utenti, consumatori e aziende. Raccontateci se ne avete avuta di recente e come l'avete risolta. In apertura vi daremo qualche consiglio prezioso per tenere sotto controllo la bolletta nel periodo delle feste, fra luci e addobbi, riscaldamento, elettrodomestici, come usare al meglio tutto quanto per non avere qualche brutta sorpresa nella bolletta tra gennaio e febbraio, perché naturalmente i consumi attuali verranno poi conteggiati nelle prossime settimane. Per la parte di Cuore lasceremo da parte le bollette, ma continueremo a leggere per imparare ad essere un consumatore informato ed attento. Il Ministero della Salute e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna hanno unito le forze e hanno scritto, per così dire, a quattro mani degli opuscoli che, raccogliendo l'eredità di Expo, vogliono continuare a creare la cultura del cibo buono e sano. Voi intanto iniziate anche su questo tema a prenotare i vostri interventi. Se volete saperne di più su uova, carne, pesce, per avere consigli, per avere indicazioni, per utilizzare al meglio i prodotti che acquistate, conservate e poi portate in tavola, ma anche per avere informazioni sulle etichette. Ci raggiungerà il dottor Giuseppe Ruocco della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute. L'utente si deve pure organizzare, perché la bolletta va pagata e consiglio a tutti di pagarla la bolletta subito, non la devi accumulare sullo scrittoio, perché le bollette si accoppiano, tu ne hai lasciate due, c'hanno il codice a barre, hanno fatti i cuccioli, hanno moltiplicato, devi andarla a pagare subito, non avere timori, perché vai a pagare in modo tale che sei pronto per pagare le altre bollette. Tant'è vero che loro, chi gestisce, sa che tu le puoi pagare. Sempre divertente questa piccola PS, chiamiamola così, gag di Enrico Brignano. Insomma, a partire dal nuovo anno entrerà in vigore la riforma delle tariffe elettriche che l'autorità del gas e dell'energia ha varato per recepire una direttiva europea. Chissà se questa riforma contempla anche che le bollette non si moltiplichino come i pani e i pesci sull'armadietto dell'ingresso delle nostre case, esattamente come indicava Enrico Brignano. Bollette che si accoppiano, diceva. In pratica cosa succede con questa novità? Viene introdotto un sistema di scaglioni a costi differenziati con l'obiettivo di rendere meno complesse, più chiare le nostre bollette. Un bel obiettivo, un processo di riforma che in realtà è molto complicato, è strutturato in 3 anni, ma le associazioni dei consumatori sono già in allerta, vogliono vederci chiaro, vogliono capirci qualcosa di più, cosa comporta questa novità, perché la promessa è che si paghi in modo più equo per i servizi che si utilizzano, ma è davvero così, è davvero possibile che tutti abbiano una redistribuzione in sostanza più equa dei costi per i servizi che utilizziamo? 800 24 00 24 il numero verde a vostra disposizione per tutte le vostre domande su questo tema, anche per raccontarci ancora una volta le vostre disavventure in bolletta, disavventure che poi noi racconteremo a Luigi Gabriele dell'Associazione dei Consumatori Codici, che salutiamo, e ci divertiremo un po' con lui questa mattina. Buongiorno Gabriele, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori. E allora, richiedo ai nostri ascoltatori, di recente una bolletta della luce o del gas vi hanno fatto fare un balzo sulla sedia, cos'è successo, come vi siete comportati, appunto raccontatecelo al numero verde, ma anche al 349-238-6666. Prima di tutto però facciamo un preventivo di quanto spenderemo durante le vacanze di Natale fra energia, gas e riscaldamento. Vi siete ripromessi di non caricare la bolletta quest'anno? Se non avete bene in mente come fare, vi mettiamo a disposizione il vademecum che ha compilato per noi e per voi facile.it, il comparatore di tariffe. Io saluto e ringrazio Vittoria Giannuzzi dell'ufficio stampa di questa di questo comparatore, di questa società. Vittoria, ben ritrovata, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, la magia delle feste di Natale risiede anche negli addobbi, nella luce, nel calore, e poi però la bolletta ci fa rimpiangere magari comportamenti non tanto economici che così in allegria abbiamo adottato durante queste feste. Allora, cosa possiamo fare in termini di gesti e comportamenti per non pesare troppo sulle tasche, perché appunto voi avete pensato proprio a delle iniziative, io me le sono lette bene ed effettivamente magari qualcuna può sembrare di buon senso e anche un po' ovvia, altre invece non è che proprio, ad altre non è che ci pensiamo tanto, ma in realtà mettendole un po' tutte insieme, questi comportamenti virtuosi, possiamo alleggerire la bolletta di almeno il 20%, ed è decisamente una bella percentuale. Cominciamo, Vittoria, con i simboli della tradizione natalizia: albero e presepe. Farli li dobbiamo fare, e poi? Dobbiamo farli, ma dobbiamo essere attenti innanzitutto alle luci che utilizziamo, perché ove è possibile dobbiamo ricorrere alle luci LED, perché ci fanno sempre risparmiare. Ma poi possiamo per esempio scegliere di sfruttare la versione alternata dell'illuminazione, perché questa ci fa risparmiare fino al 40% della spesa che altrimenti sosterremmo soltanto nelle settimane in cui albero, presepe, ma anche le luci sui balconi esterni sono accese. Quindi comunque un 40% di risparmio, come dire, piuttosto elevato, risparmio che aumenta se ci ricordiamo di spegnere le luci durante la notte. Esatto. Pratica che sembra abbastanza comune, eppure molta gente preferisce tenerle accese anche quando è anche dorme. Una questione di sicurezza, parliamoci chiaro, perché esatto, insomma, qualche piccola fiammata poi è sempre dietro l'angolo. Quindi comportamento: luci per albero, presepe e balconi. Se teniamo sempre tutto acceso nel periodo natalizio spendiamo fra i 7 e 8 euro, se sì invece alternativamente praticamente tengono queste luci accese ne spendiamo 4, quindi 40% in meno di spesa, la percentuale è molto alta. Poi in valori assoluti queste sono le cifre che andiamo a spendere. Natale vuol dire anche grandi riunioni familiari, e allora se siamo in tanti a tavola, magari se riscaldamento lo abbassiamo un pochino, esatto, ci riscaldiamo lo stesso. Esatto, impostare il termostato a soli 3 gradi in meno rispetto a quello che normalmente avremmo in condizioni normali ci permette di risparmiare il 10% dei costi di riscaldamento in un periodo comunque piuttosto limitato come quello delle grandi feste, dei grandi pranzi, quindi tra la vigilia di Natale e l'Epifania. Una spesa non di piccolo conto, soprattutto se pensiamo a quanto tempo poi le nostre bollette dovremo pagare. Insomma, in questo periodo con i riscaldamenti al massimo potremmo arrivare a spendere anche quasi 200 euro, 187 avete calcolato voi, se impostato l'impianto a 3 gradi in meno arriviamo intorno ai 168, 170, esatto, 160. Comunque un piccolo risparmio, ma come dire, sommando tutto insieme arriviamo davvero ad alleggerire notevolmente la nostra bolletta. Persino il forno microonde può dare il suo contributo, Vittoria. Esatto, il forno a microonde va usato con attenzione. Laddove appunto passiamo ore ed ore in casa a preparare da mangiare, possiamo scegliere di scongelare in maniera naturale, senza ricorrere appunto a questo strumento, i nostri prodotti che abbiamo appunto nel freezer. Laddove invece dobbiamo riscaldare qualcosa già cotto in precedenza, allora sì, il microonde è molto utile, arriveremo a risparmiare circa il 13% rispetto ad un riscaldamento su gas. Se poi al microonde abbiniamo anche un uso ragionevole della pentola a pressione, del televisore, il gioco è fatto, e qua veramente passeremo un Natale all'insegna del massimo virtuosismo economico. Vittoria. Sì, del virtuosismo economico, ma anche, come dire, nella totale tranquillità, nello spirito natalizio vissuto, come dire, al meglio, perché magari la televisione è sicuramente uno strumento molto importante ed utile per informarsi, ma il giorno di Natale o comunque quando ci sono tutti i parenti è bene spegnerlo per raccontarsi qualcosa piuttosto che guardare la TV. Non ci hai detto della pentola a pressione, che suggerimenti date? La pentola a pressione è il classico strumento che teniamo lì nascosto tra i nostri utenti utensili, ma durante le vacanze di Natale, comunque durante i periodi in cui si cucina tanto, invece è molto utile, perché arriva a ridurre del 66% il consumo di gas necessario a cucinare lo stesso piatto. Quindi, come dire, è molto utile, così come altri strumenti, penso alla vaporiera che magari non utilizziamo mai, che ci è stata magari regalata qualche anno fa, ci può permettere di risparmiare tanti soldini che, come dire, ci fanno ben piacere. Grazie, grazie a Vittoria Giannuzzi per questi suggerimenti utili e pratici. Per chi li vorrebbe visualizzare davanti ai propri occhi, può andare sul sito di facile.it e li veicoleremo anche noi attraverso i nostri social network. Grazie molte Vittoria, grazie naturalmente. Buone feste. Noi adesso andiamo alla nostra pausa, c'è il traffico, c'è poi già pronto Ettore da Roma, lo peschiamo immediatamente dopo aver dato la linea alla regia per la nostra prima pausa, per poi cominciare la nostra chiacchierata con Luigi Gabriele di Codice. A tra poco. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Cuore e Denari. Ho saldato le multe sospese, luce, gas, bollette comprese. E andiamo allora alla nuova versione della bolletta. Vi spieghiamo in che cosa consiste questa riforma che parte il 1 gennaio. Con noi Luigi Gabriele dell'Associazione dei Consumatori Codici. Leggiamo, Gabriele, adesso le faccio già sentire alcune domande di alcuni ascoltatori che hanno raccolto immediatamente il nostro invito di dire la loro su questo tema. La bolletta d'altronde la paghiamo tutti e tutti, ogni volta che arriva insomma ci sentiamo un po' frustrati nel tentativo di leggerla, interpretarla, capirla. Molliamoli subito la presa, perché è veramente un lavoro per pochi addetti ai lavori. La riforma, dicevo, l'obiettivo è sostenere i consumi efficienti, che oggi sono penalizzati da costi eccessivi, ma si vuole anche semplificare e rendere più trasparente questa bolletta. Leggo anche nelle istruzioni che ha inviato in questi giorni l'autorità del gas e dell'energia che verrà superata la struttura delle tariffe che è stata introdotta ben 40 anni fa, proprio in seguito agli shock petroliferi degli anni 70. Io ho più o meno questa età, insieme a lei, Gabriele, siamo nati sotto il periodo dello shock petrolifero, io e lei. Allora, ce la sintetizza un po'. Il paradosso è che con questa riforma tutti i consigli eccellenti, tra l'altro, che ci ha dato poco fa la signora di Facile.it, in sostanza verranno vanificati, perché tendenzialmente oggi il comportamento umano, soprattutto dei consumatori italiani, è finalizzato a risparmiare energia, e in base a questo comportamento è strutturata la struttura tariffaria vigente, cioè, nel senso, premia coloro che vogliono risparmiare energia. Con l'introduzione di questa nuova tariffa, il paradosso del paradosso è che si penalizza proprio colui che invece risparmia, perché la teoria un po' trionfalistica, tra l'altro annunciata dall'autorità, è quella di dire: se si aumenta il consumo di energia, io devo premiare coloro che vogliono consumare più energia, pertanto dei costi che non sono i costi legati al prezzo dell'energia stessa, ma afferiscono solo al 25% di una parte della bolletta, devono essere parametrati su tutti, anziché essere come oggi che sono di natura proporzionale, cioè crescono in base all'utilizzo dell'energia. Più energia usi e più paghi questi costi, mentre con la riforma tariffaria sarà esattamente il contrario: meno energia usi e più paghi questi costi, e quindi l'autorità vorrebbe stimolare il consumo dell'energia facendo in sostanza spostare quei consumi che oggi noi facciamo con altri vettori, non so, con il gas ad esempio, la produzione dell'acqua calda. L'autorità dice no, da oggi in poi vi conviene farla con l'energia, perché risparmiate se utilizzate un sistema, ad esempio una pompa di calore, o anziché cucinare con il gas domestico tradizionale utilizzate le piastre a induzione. Certo. In questo modo io vi incentivo a consumare più energia, perché pagherete di meno la parte fissa. Allora, è una questione ben complicata, anche perché dovremmo spiegare ai nostri ascoltatori che nell'ambito della bolletta, oltre naturalmente ai consumi che effettuiamo, noi paghiamo anche delle voci fisse, come lei ci diceva, sono la tariffa di rete, che sono i costi pagati per la trasmissione, la distribuzione e la misura dell'energia elettrica, la tariffa per gli oneri di sistema, che sono i costi per sostenere attività di interesse generale per il sistema elettrico. Vale a spiegare a zia Maria, no? Tutto questo è un po' complesso. L'unica cosa che possiamo dire per sintetizzare caratterizzare è che il 25% della bolletta adesso non sarà più progressivo, cioè, ma sarà di natura regressiva. Più si consuma energia e meno questo 25% ci costerà. Allora, l'autorità, appunto, nel diramare queste informazioni ha fatto anche alcuni esempi per far capire a tutti bene i termini della questione. Se nei prossimi anni, dice l'autorità, nulla cambiasse nei costi del sistema elettrico, le famiglie italiane continuerebbero a pagare complessivamente la medesima bolletta elettrica complessiva, ma avverrebbe una redistribuzione nuova fra le diverse tipologie di famiglie. Partendo da una famiglia tipo, chiamiamolo cliente tipo, che ha un consumo medio di 2700 kWh all'anno e una potenza di 3 kW, l'impatto della riforma, leggo, potrebbe essere oggi stimato in 0,9 euro al mese nel 2016, 0,09 euro al mese nel 2017 e 0,76 euro al mese nel 2018. Quindi andrebbe a spendere un cliente tipo, Gabriele, più o meno rispetto a spendere circa 71 euro in più rispetto a quello che paga adesso, mentre chi ci guadagna in tutto questo sono coloro che consumano più di 3200 kWh all'anno. Quindi le famiglie numerose, che comunque non è una cattiva notizia questa. Ma sì, non so se una famiglia numerosa necessariamente ha un consumo di questo tipo, ma certamente coloro che consumano più di 3200 kWh all'anno, che potrebbero anche essere nuclei monofamiliari che ad esempio utilizzano, non so, gli inverter per riscaldarsi, i classici condizionatori. Quindi tutti coloro che oggi noi siamo abitualmente a considerare, non so, la persona sola, la coppia, oppure comunque le persone che si trovano al di sotto dei 3 kW hanno mediamente un aumento della bolletta che va dai 70 euro fino ai 117 euro per coloro che sono addirittura non residenti, quindi tutti questi avranno questo aumento. Tutti coloro invece che si troveranno al di sopra dei 3200 kW avranno una forte riduzione, ad esempio coloro che hanno attualmente una potenza di 6 kW risparmieranno circa quasi 600 euro, certo, che sono quasi un 40% rispetto a quello che prendono oggi. E questo è il motivo per cui voi l'avete chiamata la bolletta della Befana, Gabriele? Sì, perché porta più carbone per tutti, nel senso che l'energia prodotta in Italia oggi nella stragrande maggioranza ancora viene prodotta con il cosiddetto termoelettrico, un meccanismo che funziona attraverso le centrali tradizionali, ossia che vanno a gas o che vanno a carbone. L'autorità continua a motivare questa riforma tariffaria dicendo no, che più energia utilizziamo più impattiamo sull'ambiente. È esattamente il contrario, perché più energia utilizzeremo in Italia e più quindi utilizzeremo l'energia prodotta dalle fonti non rinnovabili, che è esattamente quello che il Papa ieri ci ha detto di non fare e che a Parigi stanno cercando di evitare almeno 200 paesi nel mondo, perché sappiamo che l'insostenibilità è tale che tutti ci chiedono di dover non risparmiare ma efficientare, cioè nel senso utilizzare meno risorse. Quindi è inconcepibile una riforma nel quale l'autorità si dice dovete consumare di più per ottenere un vantaggio. È esattamente il contrario di quello che occorre al pianeta di oggi, non perché siamo contrari a qualsiasi riforma tariffaria, per carità, ma la impugneremo. No, anche perché l'autorità ha preso queste decisioni sulla base di quanto ha chiesto di fare una direttiva europea che è stata poi recepita in Italia con un decreto nel 2014, pertanto io non credo che l'autorità abbia voluto fare intenzionalmente un dispetto, poi magari tutti i lavori si possono fare meglio. Il tema è capire a questo punto, in virtù di questa previsione di aumento dei costi che graveranno soprattutto su una determinata tipologia di cliente, come queste persone potranno difendersi e se ha ragione anche la ascoltatore che scrive, allora insomma chi ha investito negli elettrodomestici di fascia A più, quelli di massima efficienza energetica, dice se la prende in quel posto, dice Fabio da Prato. Adesso gli risponderemo, voglio far sentire, non ce la faccio. Ettore da Roma, Paolo da Palermo, abbiate pazienza, sono stata un po' indisciplinata, vi chiedo la cortesia di venire con me a sentire il giornale radio, poi riparto con le vostre domande, le gireremo a Luigi Gabriele e cercheremo di capire soprattutto cosa hanno intenzione, in virtù di questo grande cambiamento, cosa hanno intenzione di fare le associazioni dei consumatori. A dopo. Beh, che sia un Natale che sotto l'albero porti la svolta non solo economica e non solo a parole. Un Natale in cui stare attenti. Molto, ma molto attenti. Perché se c'è una cosa in cui siamo tutti convocati è proprio Natale. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Cuore e denari. Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella, luce che cade dagli occhi. Luce e gas, oggi a Cuore e denari parliamo di bolletta. Attenzione ai consumi di questo periodo che rischiano di far lievitare senza controllo le bollette di luce e gas, anche se al momento per fortuna le temperature ci sembrano miti, ma attenzione anche ai cambiamenti che arriveranno dal prossimo anno. La nuova bolletta dell'energia che è il frutto del recepimento italiano di una direttiva europea. Quanto ne sapete, quanto ne avete capito? Anche questa mattina ne stiamo parlando grazie all'aiuto di Luigi Gabriele dell'Associazione dei Consumatori Codice. Abbiamo capito che una determinata tipologia di clienti sicuramente sarà più penalizzata, il cosiddetto cliente tipo, le famiglie monocomponenti, meglio andranno le cose per le famiglie numerose, ma non è detto che in realtà consumino poi così tanto come ha stimato l'autorità del gas e dell'energia. 800 24 00 24 per dirci la vostra e per raccontarci anche, se volete, dell'ultimo contenzioso che avete avuto a causa di una bolletta salata, non giustificata, un conguaglio del tutto non giustificato per l'appunto dai vostri consumi. Sappiamo che uno dei motivi di attrito più frequenti fra i distributori di servizi e consumatori c'è proprio la questione dei consumi presunti. Insomma, la rosa della conflittualità è molto ampia. Raccontateci un po' che cosa vi è successo. Intanto, sul tema di questa riforma che parte, vi dicevo, dal 1 gennaio e si completerà in un triennio, abbiamo alcuni ascoltatori. Paolo da Palermo, intanto buongiorno. Ettore da Roma ci ha salutato, si era stancato, è stato in attesa tanto, vediamo se riusciamo a ripescarlo e a scusarci con lui. Paolo, benvenuto. Buongiorno, grazie. Grazie a lei. Allora, da quello che ho sentito fino ad ora, dice la bolletta è composta da una quota, diciamo che è il consumo reale, poi ci sono le varie imposte, servizi di rete, via di chi più ne ha. Oneri di sistema, bla bla bla, ok. Mm. Ecco, per carità, è giusto che bisogna pagarli e diciamo i costi di servizio. Certo, anche perché per arrivare a casa nostra ovviamente questi servizi viaggiano su tutta una serie di strutture tecnologicamente parlando, anche molto all'avanguardia, Paolo. Sì. All'avanguardia, ecco, per carità, è giusto che si pagano, però bisogna vedere quanto si pagano, perché fino a qualche anno fa c'era il problema, non so, che non c'era tutta questa digitalizzazione, quindi c'erano le squadre dell'Enel che giravano sia per fare i distacchi che per fare gli attacchi, per venire a fare le letture e quant'altro. Adesso è tutto automatizzato, non capisco perché i costi continuano a essere ancora elevati. Ecco, io penso è stato chiarissimo. Sì. Però lei dice, vorrei che fosse tutto un sistema un po' più trasparente, che anche tutto questo importo fisso che io pago fosse un po' più chiaro, anche alla luce delle rivoluzioni tecnologiche che ci sono state negli ultimi anni. Angela da Mantova, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Io ho un garage attaccato dalla mia abitazione e l'unica cosa attaccata è la saracinesca che si alza e si abbassa con il telecomando. Io spendo 30,96 euro di ogni bolletta, quindi di al bimestre, spese, e ho un consumo di 1 kilowatt all'anno. Per questo garage su cui alza e abbassa solo la saracinesca, però l'abitazione ha un contatore a parte. Il contatore d'oro, Angela, che è successo qua, insomma. Adesso sentiamo che cosa ne pensa il nostro interlocutore di questa mattina. Grazie, Angela. E vediamo soprattutto poi se alla luce di questa novità questa bolletta sarà destinata a lievitare. Luigi Gabriele, allora, da quale caso vuole partire? Da Paolo da Palermo, commentando un po' le sue osservazioni, o dalla situazione della nostra povera Angela da Milano, che non si può più neanche permettere una saracinesca moderna, insomma, per il suo garage? Beh, allora, intanto mi dispiace dire alla signora Angela che adesso a regime con la riforma tarifaria pagherà 71 euro in più, quindi anche se continuerà a consumare solo 1 kilowattora. Questo proprio perché la riforma tarifaria va a penalizzare i bassi consumi, sempre per gli elementi concettuali che dicevamo prima, l'autorità vuole spingere a consumare più energia, non a consumare di meno. E mentre per quanto riguarda gli elementi posti in discussione dall'ascoltatore precedente, è proprio così, nel senso, con questa riforma tariffaria noi andiamo a spalmare in maniera proporzionare, cioè tra tutti i consumatori, i costi riferiti alla cosiddetta misurazione, alla commercializzazione, ovvero ai cosiddetti oneri di rete. E come asseriva lui, è proprio il ragionamento fa centro, perché noi ci siamo opposti a questa riforma tariffaria, perché dicevamo noi vogliamo che i consumatori contribuiscano tutti ai costi di rete, però vogliamo anche capire perché questi costi di rete rimangono sempre così invariati, e nonostante le innumerevole questioni che abbiamo sollevato sulle disfunzioni, ad esempio tutto il tema dei contatori, i consumatori italiani pagano con questa riforma anche di nuovo l'ennesima volta i costi di misura, quindi del contatore, per ritrovarsi sempre le cosiddette bollette in consumo stimato. Nel sì, senso, è ovvio che il consumatore è arrabbiato e tutto questo, e noi non possiamo nient'altro che sostenerlo, quindi per quello dicevo annunciamo anche un ricorso al Tribunale Amministrativo contro questa. Su che cosa farà leva questo ricorso, Gabriele? Insomma, su che cosa punterete? Sull'assunto giuridico che l'autorità sostiene di aver effettuato la riforma sulla base dell'impostazione comunitaria, ma è assolutamente il contrario, perché l'impostazione comunitaria dice ai paesi di li obbliga a fare quanto più possibile per incentivare l'efficienza energetica e per ridurre i consumi elettrici. L'autorità, prendendo al ragionamento politico, perché poi sono sempre persone, quindi fanno anche un ragionamento concettuale loro, non è che si attengono espressamente al dettato normativo sì, così per semplicitare, l'autorità lo interpreta e dice: allora io lo leggo in questo modo. Lo ha letto dicendo che secondo lei l'efficienza energetica si stimola consumando più energia, riducendo invece il consumo delle altre fonti energetiche. Allora l'autorità dice: se io riduco il consumo del gas, che comunque non è una fonte alternativa, una fonte sostenibile, di conseguenza aumentando il consumo di energia stimolo e riduco quindi l'impatto ambientale, in qualche modo stimolo l'efficienza. Ma la direttiva europea non dice questo, perché la direttiva europea impone tutti i paesi a consumare meglio e consumare meno. In base a questo appunto noi faremo un ricorso al Tribunale Amministrativo, e poi in base all'elemento di natura giuridica che è: tu non puoi dire a un consumatore dalla sera alla mattina che per risparmiare deve consumare di meno, perché quel consumatore avrà sicuramente stipulato un contratto, quel consumatore avrà certamente delle proprie esigenze, e quindi si entra in una sfera di natura civilistica che a nostro avviso è una revisione giuridica tale che l'autorità certo, non deve permettersi, siccome sì, che lo fa spesso, che l'autorità anziché disciplinare il mercato spesso disciplina le posizioni tra cittadino e operatore, allora noi ci appelleremo al Tribunale Amministrativo per sostenere queste nostre tesi. Senta Gabriele, a proposito del consumare meglio di cui lei parlava prima, chi ha in questi anni utilizzato le tecnologie fotovoltaiche? Le faccio sentire qualche ascoltatore, anzi poi ragioniamo un po' su questo argomento. Peraltro adesso sentiamo proprio in diretta la voce di Cecilia dalla provincia di Lucca, ma ci sono tanti ascoltatori che proprio sullo stesso argomento intervengono anche su Twitter. Andrea: io ho messo il fotovoltaico e passo pure per fesso. Marco dice: io ho eliminato il gas con tutto elettrico, risparmio con 3 kW, ma è un lavoro improbo. Stefano: non dimenticate di evidenziare che con questa riforma appunto delle tariffe vengono penalizzati i soggetti che hanno provveduto ad installare impianti autonomi di produzione di energia, fotovoltaici, microgeneratori, microeolici. Cecilia dalla provincia di Lucca, lei è tra uno di questi? No, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io appunto qualche anno fa abbiamo messo il fotovoltaico e il solare per l'acqua calda, e tra l'altro volevamo implementarlo ancora di più, quello del solare dell'acqua calda, per anche il riscaldamento. Cioè, voglio dire, ma è in una zona che le consente appunto di approfittare evidentemente di condizioni climatiche buone, esatto, no Cecilia, per esatto, cui ne ha approfittato. Anche perché ho il mio problema e volevo lasciare un mondo migliore anche per i miei nipoti, esatto, perché cioè, voglio effettivamente dire, chi fa queste scelte generalmente non le fa solamente in un'ottica di risparmio economico, no? Esatto. Anche per quello naturalmente, ma c'è tutto uno spirito, una filosofia anche di, esatto, esatto, di azione, sì. Fra l'altro siamo anche finanziati per 20 anni di rimborso per le spese che abbiamo sostenuto dall'Enel, cioè Quindi non lo so se la mano destra sa quello che fa la sinistra, queste persone. Certo. Cecilia, allora andiamo al tema del fotovoltaico con Luigi Gabriele, perché in tanti hanno fatto questa scelta negli ultimi anni. Il nostro è un paese anche che consente di approfittare soprattutto in determinate zone, no, del sole che c'è, per cui produzione di energia ed acqua calda grazie proprio agli strumenti fotovoltaici. Pagheranno di più o di meno questi consumatori, Gabriele, sulla base di quello che sappiamo fino ad ora? I 3.400 kWh all'anno che hanno anche un impianto fotovoltaico pagheranno circa a regime, incasseranno meno, cioè circa 100 euro all'anno, quindi dimezzeranno in sostanza il tempo di rientro che avevano previsto per l'investimento effettuato. Se un consumatore aveva fatto un investimento e in 10 anni sarebbe rientrato, a questo punto ce ne vorranno circa 15. Questo è un altro degli elementi che noi contestiamo fortemente all'autorità. Noi sosteniamo che se il consumatore ha installato sulla propria abitazione un impianto fotovoltaico è per consumare certamente meno quello che prende dalla rete, e invece a questo punto, proprio perché lui prende meno dalla rete, pagherà di più gli oneri di rete, e quindi sostanzialmente è come se l'immane investimento che ha effettuato prolungherà nel corso del tempo, e quindi di conseguenza non sarà più conveniente, sarà più una scelta vantaggiosa in prospettiva. Tutti coloro che oggi certamente vorranno effettuare un investimento di questo tipo dovranno fare più conti con il fatto che allungheranno di gran lunga il tempo di rientro dell'investimento. Niente, è proprio un mondo che non ce la può fare. Invece di rendersi più trasparente, più chiaro con i consumatori, veramente ogni anno c'è sempre qualche cosa di nuovo che lo renda ancora più un territorio, ancora più giungla, più complicato. È proprio un mondo con il quale è molto difficile dialogare, o per colpa dell'Europa o per colpa di tutta una serie di problematiche all'italiana, però è davvero difficile, insomma, essere responsabili e virtuosi con il sistema appunto della distribuzione del gas e dell'energia. Lo so che possono sembrare proprio delle considerazioni assolutamente ovvie e scontate, ma rimaniamo sempre un po' frustrati rispetto a queste trasmissioni che devono raccontare un po' di queste novità. Sentirei Giorgio da Roma e poi Marco da Milano. Giorgio, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Grazie a lei. Intanto mi rilascio subito al discorso che ha fatto il suo ospite adesso, perché in questo modo si dà anche una mano alle industrie, alle società che gestiscono il fotovoltaico. Vedo che così l'economia risale sicuramente, non c'è ombra di dubbio. Cioè le hanno affossate ancora di più, se mai fossero sane, insomma. Perché ovviamente qualcuno non ci penserà ben bene prima di impiantare. Infatti lo diceva Luigi Gabriele, in prospettiva non sarà più un investimento così vantaggioso come lo poteva aver rappresentato. Sicuramente gli abbiamo dato una bella mano a questi signori qua, devo dire complimenti. Prima cosa, secondo Giorgio? In tutto questo marasma di novità eccetera eccetera, ma anche una semplificazione della lettura della bolletta che diventa veramente un'impresa faraonica riuscire a leggerla. Era in prospettiva anche questo, di trasmettere Luigi Gabriele, se non mi ricordo male, mi pare proprio che l'anno buono fosse quello del 2016, una bolletta più chiara composta di sole 2 pagine. A che punto siamo con quell'iniziativa lì? Entrerà in vigore il 30 giugno del 2016, ecco, e sarà una bolletta composta di sole 2 pagine e conterrà soltanto le informazioni generali. Poi chi vorrà avere un approfondimento sui propri consumi durante tutti i periodi fatturati potrà fare come avviene per le banche, chiedere il classico estratto conto. Ma in queste è due una pagine da una parte. Esatto, no, senta, non stavo pensando, non è che è quella, diciamo, di come dire, la bolletta di 4 pagine di cui vengono ridotti e dimezzati i caratteri e vengono ficcate tutte le informazioni in un documento di 2, oppure qualcuna proprio ne viene tolta? Vengono eliminate tutte quelle che sono oggi le pagine aggiuntive, dove si vedono periodi per periodi in che modo sono stati calcolati i consumi e se effettuati in consumo stimato o in consumo rilevato. Questo diciamo non è proprio un bene per tutti i consumatori, lo sappiano in anticipo, perché sin da oggi bisognerà imparare perfettamente a leggere la propria bolletta elettrica o gas, perché sarà difficile capire subito se sia oggetto di una fatturazione stimata o effettiva, o se in effetti ci hanno ricalcolato qualcosa di cui già. Perché quella voce lì non sarà immediatamente leggibile sulla nuova bolletta? Tu hai speso questo per questi consumi, ma noi te ne presumiamo questi e quindi spendi questo. Questo non è subito chiaro, non è una delle informazioni primarie. Assolutamente no, bisognerà chiedere una bolletta di integrativa al proprio operatore, nel quale si vanno a vincere periodi per periodi, com'è la modalità di calcolo e cosa stiamo pagando. Prevedo già un sacco di puntate tra maggio e giugno, Gabriele, si prepari. Allora, senta, no, adesso prima di sentire Marco da Milano e Giovanna dalla provincia di Milano, volevo anche anticipare ai nostri ascoltatori che, a fronte di tutte queste criticità che si stanno mettendo sotto i riflettori, entro qualche tempo poi vedremo chi ha ragione, è difficile fare chiarezza ragionando su un mercato, come dicevo prima, così complicato proprio per sua natura, nebuloso. È anche vero che per le famiglie in reale stato di bisogno a basso reddito l'autorità ha previsto un ammortizzatore che annullerà ogni possibile effetto negativo fra quelli di cui abbiamo parlato fino a poco fa. C'è un bonus sociale di sconto. In realtà questo bonus esisteva già, no Gabriele? Viene rafforzato. Che novità vengono introdotte? Allora, l'autorità ha chiesto al governo di estendere la platea di coloro che possono attingere al cosiddetto bonus energia elettrica e il gas, che sarebbe una specie di compensazione o di incentivo che viene dato a colui che ha un reddito al di sotto di determinati requisiti, ad esempio sotto i 7.500 euro per le famiglie fino a tre componenti, sì, e sotto i 20.000 euro per i requisiti sono veramente siccome che più volte abbiamo denunciato che tra quest'anno la platea, anziché essere aumentata, si è addirittura dimezzata per l'effetto della revisione delle norme sull'ISEE, perché addirittura fa reddito prendere un bonus energia elettrica e gas, e quindi col nuovo meccanismo di calcolo coloro che l'avevano preso l'anno prima adesso non lo possono prendere perché superavano la soglia reddituale. Abbiamo chiesto al governo di rivedere questa roba qui. Il problema fondamentale è che questo bonus viene dato non sulla base di comportamenti virtuosi, viene dato esclusivamente sull'elemento legato al reddito. E quindi noi stessi abbiamo criticato più volte, anche in questo caso, sia l'autorità che il governo, dicendo che sarebbe bene legarlo sia a condizioni reddituali ma anche a comportamenti virtuosi, perché come spesso capita, se si danno 20 euro a qualcuno, quel qualcuno non si chiede se può fare qualcosa per risparmiarne altre 20, ma utilizza esclusivamente quei 20 euro. Allora, quindi detto questo, questo nuovo bonus come, che caratteristica avrà secondo lei? No, l'autorità ha mandato una segnalazione, non è che è entrata in vigore una nuova, un nuovo meccanismo del bonus. Ha chiesto al governo urgentemente di revisionare questo meccanismo affinché con l'entrata in vigore delle tariffe coloro che hanno un reddito inferiore e subiscono l'aumento tariffario a causa della revisione possono in qualche modo andare a compensare questo aumento tariffario, perché sono stati oggetto anche dell'aumento della platea del bonus. Chiarissimo. Marco da Milano, benvenuto. L'ultima domanda di oggi la assegniamo a lei. Sì, buongiorno a lei. Ma dunque, io partirei da una considerazione, mi permetta, perché la questione è veramente molto complessa e parte dal presupposto che il governo è veramente pochissimo lungimirante. Sembra quasi una deriva dell'energia fatta per un paese che non è l'Italia, è la Francia, dove ci sono generazioni diffuse e concentrate e massive di tipo nucleare, ad esempio, ammortizzato, che non l'Italia. Cioè, l'Italia è un paese a microgenerazione diffusa ormai, ed è un paese che vuole liberarsi delle centrali, di un certo tipo di centrali, e poi dall'altra parte introduce questo tipo di... In cui scoraggia queste microgenerazioni. Siamo veramente alla follia. La sua bolletta, comunque, Marco, da 100 euro... è pazzesco, infatti io sono normale che fa il pendolare, quindi lascio la casa al mattino, torna la sera, spende 30 euro al bimestre di consumi elettrici, si trova una bolletta da 100 euro al bimestre. Tutti di oneri e non si capisce bene di che 30-70, quindi la proporzione è questa, Marco. Tra l'altro, ma lei vive da solo, peraltro? No, sono una piccola famiglia. È un consumatore tipo, chiamiamolo così. È vero, Gabriele, no? È quel consumatore tipo che verrà penalizzato in 3 anni. E quanto diventerà questa bolletta da 100 euro a bimestre? Se tutto rimarrà invariato? 71 euro in più all'anno andrà a pagare il nostro ascoltatore. Perfetto, quindi devo uscire di casa ancora prima la mattina e rientrare più tardi e fare in modo che naturalmente i consumi... No, però se aumenterà il consumo di energia, forse un pochino risparmierà. Beh, può lasciare acceso le luci. Esatto, certo. Senta, Gabriele, grazie per essere stato con noi. Non ci ha dato delle grandi notizie per passare un Natale tranquillo. Qua dovremo tenere tutti quanti l'albero spento per prepararci a questa rivoluzione di gennaio. Ma ci faccia sapere in che tempi presenterete il vostro ricorso al TAR. Entro quanto lo farete? Beh, abbiamo 60 giorni di tempo, ecco. Lo stiamo facendo proprio in queste ore. E mi dispiace dire soltanto che i consumatori il prossimo anno non è che vedranno altre grandi novità. C'è tutta la questione della RAI in bolletta, la liberalizzazione. Sì, ma siamo pronti. Allora, facciamo una cosa, che prima di finire l'anno ci risentiamo di nuovo, perché il tema del canone RAI in bolletta non è mica chiaro, perché la cosa che più ci ha divertito è questa dilazione in 10 bollette, ma pagandole ogni bimestre non si capisce che tipo di dilazione il governo ha intenzione di fare. Poi se lei avrà qualche informazione, sì, ce lo voglio anticipare. Ho sentito da voci di corridoio che chi stava lavorando a questa riforma non sapeva la periodicità di pagamento delle bollette. Bene. Pensava che era mensile addirittura, e poi gli è stato chiarito invece che nella stragrande maggioranza è bimestrale, quindi c'è un po' di approssimazione. Che Dio ci aiuti, Gabriele, grazie per essere stato con noi. Intanto a presto, allora, forse ci risentiamo grazie prima della fine dell'anno. Buona giornata. Io adesso vi racconto velocemente la borsa, poi andiamo ad un altro tipo di lettura, quella delle etichette alimentari, a tra poco. Cuore e denari. Spingere un carrello pieno sotto braccio a te e parlar di surgelati rincarati. Siete andati a fare la spesa stamattina? Avete dato fondo alla dispensa, visto che siamo reduci anche perché ha potuto farlo da un lungo ponte, e molti naturalmente l'avranno passato anche a tavola. E allora la spesa, se non l'avete ancora fatta, sarete in procinto di farla, perché come dice Nicoletta, sacchi vuoti non stanno in piedi, restate con noi, perché c'è in linea telefonica il dottor Giuseppe Ruocco, direttore generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, che ringraziamo. Intanto buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E allora, raccogliendo l'eredità di Expo, il Ministero della Salute e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna hanno dato alle stampe degli opuscoli che hanno proprio l'obiettivo di farci mangiare bene, sicuri e tranquilli, e io aggiungo anche soddisfatti, perché il cibo è anche, e in Italia lo è soprattutto, piacere. Ci racconta di questa idea, dottor Ruocco, un'idea, possiamo proprio anche definirla, in linea con il tema di stamattina, stuzzicante e gustosa. Sì, in effetti si tratta di un'iniziativa che vuole essere stuzzicante per i nostri cittadini, per le persone che si recano tutti i giorni a fare la spesa, e possibilmente anche gustosa. Diciamo, abbiamo atteso volutamente la conclusione di Expo, innanzitutto perché ad Expo abbiamo preso degli impegni, abbiamo preso l'impegno tutte le amministrazioni, tutti i soggetti che si occupano di alimentazione, di proseguire, di non chiudere col 31 ottobre la trattazione del tema. E poi perché proprio in Expo il Ministero della Salute ha preso l'impegno su due aree, quello della nutrizione e quello della sicurezza alimentare. E su questa seconda area si sviluppano questi fascicoli, questi opuscoli, che trattano della sicurezza, di come alimentarsi in modo sicuro con 5 tipologie di alimenti di derivazione animale, certo. Carne, pesce, uova, latte, latticini e miele. Cambia il prodotto, ma il messaggio per tutte le tipologie appunto di prodotto è unico e chiaro, ecco perché mangi sicuro. Quindi parola d'ordine e sicurezza, dottor Ruocco, cosa significa cibo sicuro? Sì, indubbiamente abbiamo dato una struttura unitaria, perché alcuni temi, alcuni problemi sono comuni a tutte le tipologie di cibo, soprattutto a quelle di origine animale sono comuni, però magari per quelle di origine vegetale si discosta un po' la tipologia di problemi. Cosa significa cibo sicuro? Significa cibo che arriva sulla nostra tavola dopo che tutte le fasi, dalla produzione primaria, cioè dall'allevamento dell'animale, poi la macellazione e tutte le altre fasi di trasformazione, distribuzione, presenza nei negozi e, attenzione, anche la manipolazione in casa e la conservazione domestica, non ne fanno perdere quelle caratteristiche di igienicità e di non pericolosità che assolutamente vanno associate a qualcosa che noi introduciamo nel nostro corpo e che deve solo farci del bene. L'etichetta ci aiuta, perché la possiamo proprio definire la carta d'identità del prodotto che acquistiamo, quindi è il modo migliore per raccogliere tutte le informazioni necessarie. Adesso peraltro leggerla è anche più facile. Noi abbiamo parlato nella nostra trasmissione in qualche puntata passata, come saprete, lo ricorda ai nostri ascoltatori, da quasi un anno che sono entrate in vigore le direttive dell'Unione Europea. Questa mattina non facciamo che parlare di direttive dell'Unione Europea, qualcuna la recepiamo in maniera un po' discutibile, abbiamo fatto una puntatona prima, dottor Ruocco, sul tema dell'energia bollette, ma sul tema delle etichette invece mi pare sia stato fatto un buon lavoro, perché adesso sono più leggibili, le indicazioni obbligatorie sono scritte in caratteri più grandi, più chiari, in modo da renderle più visibili e leggibili. È così per tutti i prodotti? Abbiamo raccolto bene questa indicazione europea in Italia, dottor Ruocco? Sì, guardi, innanzitutto facendo un inquadramento di carattere generale, bisogna dire che nel settore alimentare c'è una grande tradizione di regolamenti e di normative comuni nei vari paesi. D'altronde l'Unione Europea è nata come mercato comune, una delle prime esigenze fu quella di regolamentare i prodotti alimentari che circolano. E indubbiamente la normativa nel settore dell'etichettatura ha subito variazioni in senso positivo per il consumatore nel corso degli anni. Come lei diceva, dal 13 dicembre dell'anno scorso è quasi completamente in vigore questo regolamento. Ah, che cosa manca ancora? Manca ancora una cosa che però sui prodotti oggettivamente già c'è, perché le aziende si stanno adeguando per tempo, ed è la parte di informazioni nutrizionali, cioè quelle tabelle. Però moltissimi prodotti già l'hanno. L'obbligo per quello scatta il 13 dicembre 2016, quindi quel pezzettino lì della norma ancora non è obbligatorio, però ripeto, la maggior parte dei prodotti e delle case si sono già adeguati a questa esigenza, anche perché è una giusta richiesta del consumatore. Lì andiamo nell'altro settore, quello nutrizionale. Però tornando alla parte di sicurezza, bene, oggi le etichette dei prodotti danno una montagna di informazioni che prima erano più mascherate sotto codici, adesso sono leggibili, e secondo me è una giusta esigenza. L'Italia tra l'altro l'ha sostenuto da sempre, proprio perché abbiamo un patrimonio che possiamo mettere con certezza e con tranquillità sul mercato europeo, non ci nascondiamo a differenza di magari qualcun altro. Tra l'altro, allora guardi, visto che stiamo quasi festeggiando questo primo compleanno delle etichette più leggibili, inviterei gli ascoltatori a raccontarci all'800 24 00 24, abbiamo ancora almeno un quarto d'ora di tempo da passare col dottor Ruocco, raccontateci se da un anno a questa parte avete anche un occhio più vigile, più attento sulle etichette dei prodotti che acquistate, se vi siete effettivamente resi conto che sono più leggibili, se le avete percepite più chiaramente. Dateci un po' il vostro test di consumatori che frequentano spesso supermercati, centri commerciali, negozi di generi alimentari. Insomma, devo dire che io sono forse poco attento, vado un po' più sul tema delle calorie, dottor Ruocco. Quelle sono chiarissime, senti. Esattamente. Infatti, sull'altro sono un po' meno attenta, però insomma magari un test lo farò anche io nei prossimi giorni. Tornando invece agli opuscoli dai quali siamo partiti. Intanto, per gli ascoltatori che chiedono dove possiamo trovarli, sono a disposizione, allora, sul sito del Ministero? Assolutamente. Sono tutti disponibili, si va sul sito salute.gov.it, si cerca l'area tematica sicurezza alimentare e si possono scaricare, è un pacchetto di 5, si possono scaricare anche singolarmente, quindi se uno è interessato particolarmente ad un tema si scarica solo quello. Uh-huh. Poi oltre a questo materiale devo dire, perché è stato un grande lavoro di due del nostro team, diciamo, che avevamo costituito per Expo, quello della mia direzione generale che si occupa, come abbiamo detto, di sicurezza e nutrizione, e quello della direzione della comunicazione, abbiamo fatto un grosso lavoro e troverete una montagna di materiali sul nostro sito, tutti aggiornati. Voglio ricordare che questi fascicoli sono stati aggiornati all'inizio del 2015, quindi contengono tutte le ultime, gli ultimi adeguamenti normativi fino ad oggi, e li adegueremo anche nel futuro, evidentemente. 5 opuscoli per 5 prodotti. Cominciamo, dottor Ruocco, con la carne. Quella carne che è finita proprio nell'occhio del ciclone in seguito all'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, anche se l'attenzione era sul consumo di carni lavorate più che sui prodotti freschi, no? Ma in ogni caso, sul tema carne, proprio in termini generici, perché dovremmo fare 20 puntate solo su questo argomento, il consumatore che cosa deve sapere? Quello attento. Ma guardi, il consumatore innanzitutto deve sapere che le carni si possono consumare con tranquillità, anche diciamo l'allarme è solo stato lanciato per l'eccesso e soprattutto per la rilavorazione, la ricottura di alcuni alimenti cotti, e comunque nella nostra tradizione alimentare le carni rosse e gli insaccati vengono usati con parsimonia. E questa è l'indicazione che mi sento di dare, cioè non demonizzare, usare in modo equilibrato e con parsimonia. Andando invece al la sicurezza di queste carni. Innanzitutto nell'opuscolo si dice che chiaramente le carni, dal momento in cui sono lavorate, quindi affettate, messe poi nelle confezioni, devono essere conservate attraverso la catena del freddo. Ecco, assicuratevi che questo avvenga, non comprateli in esercizi dove i frigoriferi non li vedete, non li, insomma, fate attenzione a questo, che non siano prodotti brinati sulla superficie, perché potrebbe significare che c'è stata un'interruzione, diciamo, o comunque un calo di efficienza dei frigoriferi. Nel momento in cui li portate a casa, fate presto a portarli e conservateli, questo se sono carni fresche. A maggior ragione se parliamo di prodotti congelati o surgelati, non bisogna far elevare la temperatura. Ci sono quelle borse, ci sono insomma tante cose che le nostre famiglie conoscono ormai, sono a disposizione di tutti, usarli con accortezza, perché altrimenti si interrompe la catena e i germi che comunque sono in qualche parte presenti nella carne potrebbero svilupparsi. E quindi invece l'altro provvedimento è la cottura. La cottura deve essere accurata, deve essere ben cotto il prodotto, e questo garantirà la libertà da germi pericolosi per la salute. Allora, adesso devo andare al traffico, dottor Ruocco, poi parleremo rapidamente di uova, pesce, latte, latticini e miele, però le faccio sentire anche subito sul tema etichette l'osservazione di Giorgio da Verona, poi le chiederò che cosa ne pensa. Giorgio, velocissimo, grazie, 30 secondi per lei. Allora, etichette sono sempre più ricche di informazioni, caratteri piccoli e spesso illeggibili. Perché non utilizzare meglio i QR code che possono essere possono portare a un sito internet con tutte le informazioni leggibili meglio, visto che tutti a fare la spesa hanno uno smartphone? Sì, Giorgio, perché no? Magari non so quanto anche una popolazione ancora anziana possa essere favorevole ad una rivoluzione di questo tipo, ma magari le due modalità possono convivere tranquillamente. Chiederemo al dottor Ruocco fra un istante se c'è anche questa intenzione fra gli obiettivi del Ministero di rendere le etichette più leggibili attraverso l'utilizzo appunto degli smartphone e del cosiddetto QR code. A tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Cuore e denari. In fondo al mare. Eh sì, le canzoni della Sirenetta, per parlare anche di pesce. Adesso col dottor Ruocco del Ministero della Salute faremo un punto anche sugli opuscoli che sono stati distribuiti dal Ministero della Salute proprio per far chiarezza anche sulla qualità degli alimenti che mandiamo. Questa novità che fa seguito naturalmente all'impegno assunto dalle istituzioni a seguito di Expo 2015. Ma dottor Ruocco, il tema delle etichette ha sollevato, ha stuzzicato molti ascoltatori. E allora, perché, ci chiedeva l'ascoltatore di Verona, non possiamo avere tutte le informazioni adottando la tecnologia appunto del nostro smartphone che vuole leggere il cosiddetto QR code, no? In realtà viene usata questa modalità. Io non so, una volta ho visto una persona in un supermercato che lo applicava ad una bottiglia di vino, non mi ricordo, per capire che cosa, dove, in quali altri posti di Milano lo potesse comprare. Quindi in realtà poi gli usi sono i più variegati, no? Però secondo lei, per avere maggiori informazioni sulla qualità del prodotto, potrebbe essere una modalità nuova per i consumatori? Che guardi, ne dice? Sì, guardi, dal punto di vista, questo percorso è stato fatto anche in altre tipologie di prodotti, penso ad esempio alle attrezzature ospedaliere, e nonostante in quel caso ci troviamo in un ambiente professionale, quindi dove l'utilizzo è fatto da tecnici, prima di arrivare alla possibilità di avere, non so, dei manuali solo elettronici, sono passati molti anni. Attualmente devo dire il regolamento è ancora un regolamento di tipo tradizionale, che privilegia la presenza delle indicazioni in formato scritto, insomma testuale, e però ovviamente è consentito l'utilizzo in forma volontaria e accessoria di quest'altra modalità, che certamente costituirà nel futuro uno sbocco. Io credo che andremo più, man mano che tutti tutti imparano ad utilizzare questo tipo di approccio, e ovviamente sono sempre di più, certamente andremo verso un utilizzo di queste modalità alternative, il QR code, certo, il codice a barre, anche per poi consentire la formazione di una dispensa domestica, quindi attraverso un dialogo con il frigorifero per sapere quali sono gli alimenti che sono in scadenza, certo, quindi ci sono una serie di prospettive. Il percorso è tracciato, dice lei, insomma, dovremo sfruttare. Giorgio, pian pianino, fretta, ma ci andremo. Come lei ricordava, c'è tanta larga parte della popolazione che ancora non è così, esatto, tecnologica, ma certamente è una risorsa, va utilizzata in modo intelligente e può dare un contributo all'informazione, sì, al cittadino, che indubbiamente, esatto, più mettiamo informazioni, le etichette non è che diventano delle lenzuola. Esatto, quindi, come la bolletta di cui parlavamo prima, diventi dietro pagine che non si capisce niente. Poi a un certo punto si perde, invece bisogna trovare. Quindi io sono d'accordo che va esplorata e nel prossimo futuro anche utilizzata questa modalità. Dottor Ruocco, le informazioni sulle uova dai vostri opuscoli, riusciremo a capire definitivamente la differenza fra fresche, freschissime, biologiche, prodotte da galline libere, in gabbia, insomma, ma i fondamentali? Noi speriamo di sì, l'opuscolo su questo punto è molto dettagliato, aiuta, ecco, questo è il caso, aiuta a leggere le etichette, a conoscere le varie tipologie, le denominazioni che si trovano sulle scatole e che hanno un significato, non sono casuali, quindi noi speriamo che di aver dato un contributo a questo, per avere, noi vogliamo dei cittadini consapevoli, informati e che poi fanno le loro scelte in piena libertà. Alcuni aspetti sono aspetti di qualità, quindi avere l'uovo più grande o con maggior tuorlo è un discorso che non impatta direttamente sulla sicurezza, impatta sulla qualità e in qualche maniera impatta anche sul prezzo, evidentemente. Altri aspetti invece sono importanti per la sicurezza, tipo la data preferibilmente entro la quale vanno consumati, e quindi bisogna leggerli, queste cose vanno lette e come noi consigliamo, una volta messi nel frigo, conservare magari l'indicazione fino a che non si è consumato completamente. Esatto, perché sennò ce lo dimentichiamo. Sì, dopo un po' pare di ricordarlo invece. Allora, guardi, il tempo a nostra disposizione, sì, purtroppo, dottor Ruocco, è scaduto. Per il pesce, per latte, latticini e miele, invito i nostri ascoltatori ad andare sul sito del Ministero della Salute, dove si potranno trovare i quaderni appunto della salute, un'altra iniziativa che è perfettamente in linea con la filosofia di Cuore e Denari. Mangia sano, investi in salute, questo è il messaggio portante, quindi dottor Ruocco, siamo quello che mangiamo e se mangiamo bene stiamo bene, anche per il Ministero della Salute, buone notizie. Sì, 5 secondi prima di salutarla. Seguiteci perché anche per Natale usciremo con un opuscolo dedicato. Al panettone magari? A tutta l'alimentazione del periodo. Ottimo, grazie per questa anteprima, per questa primizia e buone feste allora, grazie, dottor Ruocco, presto. A voi e a tutti i spettatori. Allora, prima di salutarvi, lo sapete bene, è il momento della nostra favola di Natale, perché si fosse sintonizzato ora vi spieghiamo la nostra iniziativa e come potete partecipare fino alla vigilia. Nel corso del programma il grandissimo scrittore Andrea Vitali, accompagnato dalla musica della band lombarda dei Surutumana, ci leggerà un breve brano della favola, uno per giorno, come un vero e proprio calendario dell'avvento. Qui arriva il bello, sarete voi ad immaginare un proseguimento entrando così nella favola e contribuendo a scriverla. Al contributo più interessante che viene scelto dalla nostra redazione da Andrea Vitali arriva una copia del libro con la favola di Vitali. Per vedere il podio di oggi andate sulla pagina dell'iniziativa che trovate sul sito di Radio 24. Adesso andiamo a sentire come procede la favola. Nove vecchie macchie da lavare sul maglione. Nove, rispose Mercurio, ma erano solo i primi, altri 90 lo aspettavano, tutti stracolmi di lettere per il babbo. 10 ceci cuoci come buono il minestrone, 11 segreti che 11 riveleremo, 12 gli apostoli che apposta li contiamo. Vi garantisco che Babbo Natale avrà il suo bel da fare quest'anno, non ricordo di aver mai visto così tante... Mercurio stava per dire che non aveva mai visto così tante lettere quando Babbo Natale fece la sua comparsa e nel tentativo di andargli incontro per salutarlo con un abbraccio restò incastrato nella porta di casa. Su tutti i presenti calò un silenzio imbarazzato. La Arena Rudolph guardò Mercurio. Mercurio le ritornò uno sguardo preoccupato. Pure il babbo era in grave difficoltà e, sbuffando e congestionato in viso, stava cercando di liberarsi da quella specie di trappola in cui si era infilato. Con un delicato colpo di muso, la renna Rudolph lo spinse all'indietro. «Babbo», disse infine Mercurio, «così grasso non ce la farai a infilarti nei camini per lasciare i regali sotto l'albero». Babbo Natale ammise che Mercurio aveva ragione. A quel punto c'era una sola cosa da fare. E allora a quel punto che cosa c'era rimasto da fare? Completate il racconto, naturalmente andate sulla pagina della nostra favola attraverso il sito di Radio 24. Noi abbiamo terminato, vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a Marco Lombardo, Laura Vanossi, Carmelo Lauricella. Noi domani ritorniamo in tandem. Vi anticipo che nella pagina di Investire Informati domani ci occupiamo del decreto salva banche, di tutte quelle obbligazioni in circolazione fra gli risparmiatori che temono di non poter più recuperare nulla. Avete sentito le promesse del governo, cosa sta succedendo? Ne parliamo domani. Buona giornata.